Allora, buonasera a tutti e a tutte. Ci siamo anche oggi, come al solito, siamo assolutamente puntuali con salute e felicità. Allora, credo che ci sia un po' di riverbero alla voce, quindi ve lo caccio immediatamente. Allora, direttamente dalla seconda prova dell'esame di Stato, davvero nel delirio, oggi una puntata un po' particolare. Di notizie non ce ne sono molte. Il clima politico sostanzialmente in Italia si sta assopendo davvero, entrando in quella torrida estate che come ogni anno ci aspetta. Però non mancano ancora una volta gli schiaffi in faccia ai lavoratori e alle lavoratrici, ai studenti e alle studentesse, eccetera, eccetera. Avremo qualche cosa di cui discutere, insomma, va. Sicuramente ci sono anche un bel po' di iniziative in giro che vale la pena di. Come dire, di pubblicizzare. Come al solito, ore 21:01 precisamente, sigla di salute e felicità. Buon ascolto a tutti e a tutte. E allora la sigla è andata, brevemente insomma, come dire, un po' quello che è il tema che mi assillerà, che mi ha assillato in questa settimana e che quindi assillerà anche voi. Oggi, come dovete sapere, il vostro caro frodo.noblogs.org ha fatto l'esame di Stato. Wow, tu dici, gulp, che vuol dire esame di Stato? Oppla, scusatemi, ho abbassato per sbaglio. Esame di Stato vuol dire che te praticamente, allora vai lì, ieri mattina vai lì e fai la prima prova per l'albo degli psicologi, ok, ti esce un tema e tu in 2 ore fai un tema e tu dici, cazzo, 2 ore, dai, per la peppa, cioè, ma come si fa? Cioè, al liceo per parlare di Pascoli te ne danno cinque. La Peppa non quella che mi scrive su MSN, dicevo. Comunque, al liceo te ne danno 5 per Pascoli e qui invece te ne danno 2 per parlare della memoria, tipo. E allora vabbè, dici dai, 2 ore c'è cioè, la memoria, dai, facciamo bella e brutta, ta, consegni, dai, da paura, va bene, è andata, memoria, va bene, se può fa, se non se può fa, va bene, dai, è fatta, insomma. Che fai? Allora poi la mattina dopo dici da paura oggi dormo. No, no, no. Perché la mattina invece dopo vai a fare la seconda prova, perché manco le corone d'Ercole. Allora vai a fare la seconda prova e in 2 ore anche questa volta ti chiedono di fare un progetto di intervento. Fare un progetto di intervento vuol dire capire che cosa fare psicologicamente in un contesto. E tu dici cazzo in 2 ore, cioè vabbè dai, dammi una traccia, dammi una cosa, no, ci sta la traccia, almeno un poco uno capisce, ma che cosa devi fare? Niente, la traccia è scegli un contesto a scelta, scegli un argomento a testa, fai un compito a testa, l'importante è che lo fai in 2 ore. Dopodiché succede che il giorno dopo tu dici vabbè dai, oramai ho preso il ritmo, domani vado a fare la terza, chiudiamo sto pacchetto, niente. La terza prova ti dicono che il 20 luglio, cioè davvero, che praticamente ci sarà la California a Roma, l'asfalto si squaglierà sotto i nostri piedi e praticamente saranno emigrati tutti, a parte quegli strozzi come a me che devono ancora fare l'esame di Stato. Fatto sta, i risultati di questo esame non si sa, non si sa come è andato, non si sa come va, va bene comunque, transizione di fase, salute e felicità vanno avanti. Vi faccio ascoltare la canzone che davvero più rappresenta quello che ho fatto io in questi giorni. Lei è Fiorella Mannoia e la canzone si chiama Caffè Nero Bollente. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente, ma tu che smetti alle 3, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano. Bisogno di te. che io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno delle tue mani, mi basto sola. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato ormai da un sole paziente, che brucia dentro di me, che è forte come il caffè, un pomeriggio così. Perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te. Perché io non ho bisogno. E allora, lasciando perdere un po' le questioni personali di frodo.roblox.org, che ne avrebbe da dire davvero oggi, che te fanno fare i temini pure quando c'hai 30 anni ai concorsi pubblici, ti fanno fare i temini in 2 ore, come a dire che davvero l'istruzione pubblica, ma anche la professione oramai è sotto le scarpe, diciamo, basta poco che ce vo'. Uno torna a casa e dice, bah, mi bevo un bel bicchiere di vino, poi prendo sta bottiglia di vino bianco che c'era già in frigo, bella fresca, e faccio, ah, Trebbiano d'Abruzzo. E dici, Abruzzo, Abruzzo, Abruzzo, però che era successo in Abruzzo qualche tempo fa? In Abruzzo qualche tempo fa c'era stato un G8, no? C'era stato un G8 perché, diciamo, più che altro c'era stato un terremoto, però c'era stato un G8. Allora vai, cerchi un po' in giro notizie. E ti rendi conto che se scrivi G8 su Google non è che ti esce tanto la questione del G8 all'Aquila, che quella oramai l'abbiamo passata tutta quanti, ma spuntano strane notizie confuse su quello che è successo a Genova anni or sono, che praticamente, insomma, buona parte della gente ha dimenticato, sicuramente non i genovesi che hanno avuto una città devastata, però fatto sta, voglio dire, insomma, è successo un bel po' di casino. La storia, insomma, la potete trovare ovunque, non serve che ve la racconti ulteriormente. Però leggi una cosa strana, vai sui media mainstream e leggi: lo Stato si propone come parte civile nel processo dell'ennesima sentenza che verrà, insomma, esplicitata, non riesco a parlare perché sono stanco dell'esame di Stato, comunque, che verrà indetta per questa storia del G8, perché ai loro, o ai noi forse, qualche strano giudice, sicuramente comunista che si mangia i bambini, era riuscito a risalire al fatto che in realtà in quella scuola, la Diaz, non è che c'era stata una macelleria messicana, perché la macelleria messicana è molto di meno, c'era stato veramente il delirio, il panico e la storia, insomma, i media non mainstream l'avevano raccontata. Ai noi, come dire, questo Stato si costituirà, ecco, il verbo giusto è questo, parte civile, e noi, come al solito, ci rimetteremo ancora una volta, più che altro di faccia, perché oramai quello che hanno fatto è fatto, però voglio dire, come gesto già di per sé è davvero vergognoso. Poi un'altra cosa che vi invito ad andare a vedere sempre riguardante il G8, partendo da Carlo Giuliani, è un simpatico manifesto. Questo qua anche lo trovate un po' nei siti dei media indipendenti, insomma, di andare a vedere un bel manifesto che hanno fatto, che gira per Roma. Fatto non so bene da chi perché non è firmato, però insomma, comunque dall'area antagonista che ha fatto questa bella cosa. Ha messo una foto di Carlo Giuliani, accanto una foto di Federico Aldobrandi, accanto una foto di Stefano Cucchi. E accanto a una foto di Gabriele Sandri. E poi al centro ha messo una bella sagoma di un uomo e c'è scritto dentro: il prossimo potresti essere tu. Perché è proprio così, insomma, la polizia è abbastanza chiaro quello che fa in questo paese, quanto sia coperta in quanto parte integrante, parte stessa dello Stato. E quanto a queste persone fuori, dentro le carceri, fuori e dentro i CIE, per strada, nelle piazze, si è permesso davvero di fare tutto quello che gli pare. Fatto sta, la prossima canzone che state per ascoltare è appunto Al ballo mascherato. Lui è Fabrizio De André e fra poco vi darò un po' una lettura anche musicale di quella che è la puntata di oggi. Buon ascolto a tutti e a tutte, Al ballo mascherato. Drogato da troppe sconfitte, cede alla complicità di Nobel che gli espone la praticità di un eventuale premio della bontà. Maria, ignorata da un Edipo ormai scaltro, mima una sua nostalgia di natività. Io con la mia bomba porto la novità, la bomba che debutta in società, al ballo mascherato della celebrità. Dante alla porta di Paolo e Francesca, spia chi fa meglio di lui. Lì dietro si racconta un amore normale, ma lui saprà poi renderlo tanto geniale. E il viaggio all'inferno ora fallo da solo, con l'ultima invidia lasciatala sotto un lenzuolo, sorpresa sulla porta d'una felicità, la bomba ha risparmiato la normalità, al ballo mascherato della celebrità. Non ha una natura gentile, ma spinta da imparzialità, sconvolge l'improbabile intimità di un'apparente statua della pietà. Grimilde di Manhattan, statua della libertà, adesso non ha più rivali la tua vanità, e il gioco dello specchio non si ripeterà. Sono più bella io o la statua della pietà, dopo il ballo mascherato della celebrità. Nelson, strappato al suo carnevale, rincorre la sua identità e cerca la sua maschera, l'orgoglio, lo stile, impegnati sempre a vincere, mai a morire. Poi dalla feluca, ormai a brandelli, tenta di estrarre il coniglio della sua Trafalgar e nella sua agonia sparsa di qua di là implora una Sant'Elena anche in comproprietà al ballo mascherato della celebrità. Mio padre madre pretende aspirina ed affetto e inciampa nella sua autorità, affida a una vestaglia il suo ultimo ruolo, ma lui esplode dopo prima il suo decoro. Mia madre si approva in frantumi di specchio, dovrebbe accettare la bomba con serenità, il martirio è il suo mestiere, la sua vanità, ma ora accetta di morire soltanto a metà, la sua parte ancora viva le fa tanta pietà, al ballo mascherato della celebrità. Ha lasciato la luna nel bagno, accesa soltanto a metà, quel poco che mi basta per contare i caduti, stupirmi della loro fragilità. E adesso puoi togliermi i piedi dal collo, amico che m'hai insegnato il come si fa, se no ti porto indietro di qualche minuto, ti metto a conversare, ti ci metto seduto tra Nelson e la statua della pietà, al ballo mascherato della celebrità. Eh sì, ci siamo di nuovo. Se andate su roma.indimedia.org potete trovare il manifesto di cui vi parlavo qualche minuto fa. Purtroppo l'ha postato semplicemente Repubblica, quindi con nessuna firma ha postato questo manifesto. Fatto sta, se andate anche su roma.repubblica.it lo potete trovare. Secondo me le parole più giuste, diciamo, sono riassunte in uno dei commenti che troviamo su Indimedia, che è: Federico Aldrovandi, è stato ucciso dallo Stato, Stefano Cucchi è stato ucciso dallo Stato, Carlo Giuliani è stato ucciso dallo Stato, Gabriele Sandri è stato ucciso dallo Stato. Protestiamo perché un ragazzo viene ucciso dallo Stato, protestiamo fino a quando qualunque persona verrà uccisa dallo Stato. La lettura di questa puntata, la lettura musicale, diciamo il filone musicale, è una cosa molto banale. Uno, come dicevo prima, prende il Trebbiano d'Abruzzo e fa bah. Poi guarda accanto e fa un altro vino italiano, ma io che musica italiana ho su questo hard disk? E allora metti Scartabelli e fai to 1, Fiorella Mannoia, poi fai to, dai, Mannoia De André obbligatorio, poi scendi giù e fai Daniele Sepe, Bennato, 99 Possi, Assante Frontali, Baracca Sound, Adriano Modica, Elio Storietese, Cappello a Cilindro, Luci Centrale Elettrica, Zu, Giovanni Allevi, Capossera. Fai cazzo, ma c'è un sacco di musica in Italia. E noi ci lamentiamo che non ci sono artisti che non spaccano. In realtà però ce ne stanno di artisti che spaccano in giro. Italiani, caspita, italiani, senza essere nazionalisti, sfegatatamente. Però dico, vabbè, mo sai che c'è. Oggi passo un po' di musica di artisti italiani. Questo prossimo artista è Daniele Sepe, nell'album Daniele Sepe Und Rote Jets Fraction, e il brano si chiama Bush e Bugiardo. Thank you. Allora, restiamo sempre dalle nostre parti, in questo paese sventurato che però produce, guaio, produce con fatica, ma produce. Un paio di notizie di quello che avverrà in zona Reggio Calabria. Se siete a Reggio Calabria dal 25 al 27 giugno 2010, il Jazz Club Marcello Turano e il Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria presentano Aspro Jazz, un workshop residenziale di musica jazz che si pone nell'obiettivo di avvicinare i partecipanti al mondo della musica jazz attraverso l'esperienza diretta della prassi esecutiva. La modalità residenziale consentirà l'approfondimento di alcuni temi e idee in un confronto continuo tra docente e allievi. I partecipanti verranno divisi in piccoli ensemble guidati dal docente al fine di un'esibizione al termine del corso. Se volete ulteriori informazioni su questo workshop residenziale di musica jazz che si terrà a Gambari d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, basta che andate sul sito www.mustrumu.it. E sempre su questo sito potete trovare un'altra notizia, diciamo un altro evento che si terrà in questo caso però al Museo dello Strumento Musicale, che il 30 giugno ci sarà la festa del Cordax, un progetto, festa di chiusura del progetto Cordax, un progetto che per tutto quanto l'anno ha provato a portare avanti, qua il Trebbiano funziona, e a portare avanti, come vi dicevo, insomma un po' un discorso sulla musica tradizionale che non fosse semplicemente circoscritto, diciamo, a quella che è la musica tradizionale reggina, detta anche Vidanedda, ma portando insomma un po' in generale quella che è la questione della tamurriata, caratteristica della Campania, e della pizzica pizzica pugliese, anche se un po' ci avete stufato con questa pizzica pizzica pugliese, Simu Saluntini di Lumundu Cittadini, abbiamo capito, però va bene, fatto sta, se volete, 30 giugno, mercoledì, ci sarà la festa appunto di chiusura del progetto Cordax, insomma ci saranno artisti appunto che ne parleranno e suoneranno la musica tipica campana, pugliese e reggina. Se volete informazioni www.mustrum.it, sia per il progetto Cordax che per quanto riguarda appunto il workshop che vi dicevo prima, workshop residenziale dal titolo Aspro Jazz. La prossima canzone che ascolteremo, uno dice sempre perché, insomma, ma com'è possibile questa Italia sempre diseredata? Il prossimo gruppo che ascolterete invece è laziale, meglio dire romano. Un gruppo abbastanza interessante, nel senso che fondono molto l'universo musicale con poesia e diciamo atmosfere molto aeree, molto aperte. Loro sono i Cappello a Cilindro e questa canzone si chiama Gira l'economia. Buon ascolto a tutti e a tutte. Senza perdere il controllo, calmo, dedito e sicuro, un col fiato sopra il collo, un processo naturale, ti abitui ad invecchiare, conti il tempo in serenate, ritardi e fregature. Lavorando duro, ci si intossica di meno, conti prestiti e cambiali, una vita a tasso zero, reso tanto e piano infelle, le zigare all'armare, sembra fatica il padrone. Stassi un po' il protocollo, portati solo la faccia e una penna per firmare, il sudore una saccoccia per nasconderci due dita da incrociare. Gira, gira, gira, gira, gira l'economia, gira, gira, gira, gira. Diventata una mania, gira, gira, gira, gira. E allora gira, gira, gira l'economia, senza alcun dubbio gira in tutta Italia, restando un po' al sud dopo i cappelli al cilindro che sono però romani, e vi invito ad ascoltare. Il giorno 14 giugno si è riunito a Rossano il forum, il coordinamento, scusatemi, delle associazioni, dei movimenti e dei comitati che si sono costituiti alla Lamezia Terme in occasione della manifestazione promossa dai Verdi contro la centrale Enel. Sostanzialmente, diciamo, la vertenza comune è quella appunto di difendere la Calabria, di difendere un territorio che sta vedendo sempre di più l'aggravarsi di situazioni ambientali, come dire, a mo' di farti sentire la spazzatura di un paese che ha bisogno di riprendersi dalla crisi. Le vertenze poi specifiche territoriali che si sono riunite sono tante: la riconversione a carbone della centrale di Rossano e di Salina Ioniche, cioè ancora col carbone, davvero roba da prenderli a schiaffi questi che parlano di carbone quando c'è il sole che tira fuori megawatt in tutta Europa ogni giorno. La centrale a biomasse di panettieri, che dice a biomasse, ma che cazzo vuol dire a biomasse? Ma metti due pannelli eolici in montagna e tira fuori l'energia, no, biomasse, così se è complicato non capisci funziona di più. Centrale Enel del Mercure, le questioni navi dei veleni e del fiume Oliva, chiaramente c'è, cioè, sotto gli occhi di tutti, l'anno scorso a agosto è uscita fuori che forse, forse, forse ci sono tonnellate di rifiuti radioattivi sulla costa ionica calabrese. Le ferriti di zinco nel Cassanese, scusatemi, a Crotone, le devastazioni ambientali su tutte le coste della regione, per buona parte dovute a speculazione di qualunque tipo. Alla fine della discussione si è deciso di convocare un nuovo forum delle associazioni che parta dalle questioni aperte da quello di Lamezia e che si svolga a Rossano sabato 17 luglio dalle ore 9, e di convocare una riunione del coordinamento espresso dal forum di Lamezia da svolgersi alla sede della CGIL di Lamezia il 23 giugno, quindi questa è la prima scadenza, fra pochissimo, alle ore 19. Se volete ulteriori informazioni su quelle che sono le vertenze specifiche, basta che scrivete riconversione a carbone Rossano o saline ioniche su Google, centrale biomasse, centrale Enel, Calabria, insomma le trovate. Oppure, molto scusatemi, molto più brevemente, potete andare sul sito difendiamolacalabria.org, dove all'interno ci sono, insomma, tanti bei vari link, tra cui anche quello dell'acqua pubblica, che dai, dai, dai, siamo arrivati, non lo so, a forse 4.000 miliardi di firme, alla faccia di chi ci vuole fare pagare l'acqua 100.000 euro a goccia. E sempre per restare un poco su quella che è la musica italiana, ora un altro artista che sicuramente per alcuni è controverso, però comunque sta facendo un bel po'. Pizzica, pizzica, pizzica, pizzica, va bene, un pezzettino ve lo mettiamo, non proprio di pizzica, però comunque di musica tradizionale. Lui è Eugenio Bennato e il brano si chiama Mille e una notte fa, come un po' a ricordarci quanto era bello il nostro stretto prima che cominciassero i lavori per il ponte, quanto era bella la nostra costa calabrese prima che cominciassero le deturpazioni e le devastazioni ambientali. Mille e una notte fa, Eugenio Bennato. Siete collegati su Salute e Felicità e transizionedifase.org. Quella gente da quelle sponde, di tamburi e di poesie, di tutte le leggende, che l'Oriente con le sue stelle ci porterà. Da lontano, da quegli occhi scintillanti, colorati come il mare, da quelle voci, da quell'incanto. Maestri senza nome e di chitarre come spade, da quel sogno che scompare lentamente nel deserto delle città. Favole mai raccolte, per quelle Americhe mai scoperte, per quel canto che ogni notte ritornerà. Sì. Perdonatemi per questa interruzione, però in realtà mi stavo mangiando un pezzo di frisella ascoltando Eugenio Bennato. Allora, dicevo, dai, davvero ingoio e bevo un goccio prima di morire. Allora, perché No Ponte? Dicevamo la questione del No Ponte. Allora, perché ancora ci avete rotti i coglioni con questo No Ponte? No Ponte, No Ponte, No Ponte. Non lo faranno mai, non lo faranno mai, non lo faranno mai. Lo sappiamo anche benissimo noi che non lo faranno mai. Però dovete sapere che dal lato messinese, diciamo, del No Ponte hanno aperto i lavori. E sì, No Ponte, chiaramente il movimento No Ponte ha occupato il cantiere. Centinaia di cittadini hanno partecipato ieri all'iniziativa di informazione e sensibilizzazione. Scusatemi, il ruttino ci stava. Indetta dalla rete No Ponte per contestare l'inizio delle trivellazioni in via Circuito a Faro, finalizzate a completare gli studi necessari per il progetto definitivo del ponte sullo stretto. Sostanzialmente dall'assemblea spontanea svoltasi a fianco della trivella è stata lanciata la prossima manifestazione, che si svolgerà lunedì 21 giugno a partire dalle 14:30 in prossimità dei cantieri. Adesso, dopo avervi brevemente stressato con un'altra notizia, vi ascoltate la tamburiata dei 99 posse, assalti frontali e baracca sound. Buon ascolto a tutti e a tutte.